Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove dirotto, sul livello del mare, sopra il tetto del mondo, anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto, mantieni il bacio oltre l'errore del tempo, fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento, non staccare le labbra neanche un solo secondo, e non farti distrarre dal rumore di fondo, perché alla fine ogni volta è l'amore che ci salva dalla ferita del mondo. E senti solo il cuore, il male non esiste più e non c'è più dolore, soltanto io, soltanto tu, questo silenzio sa di mille parole, ed io starei qui ad ascoltarti per ore, per anni, un solo secondo, e se tu mi guardi me ne rendo conto che alla fine ogni volta è solo l'amore che ci salva dalla ferita del mondo. Proteggilo fino alle radici, dai passi indecisi e temporali improvvisi, dai momenti di crisi e le battute infelici, da quelle persone che si fingono amici, dall'invidia degli altri, dai giudizi ignoranti, dalle schegge impazzite che arrivano da tutte le parti. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo, fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento, non staccare le labbra neanche un solo secondo, e non farti distrarre dal rumore di fondo, perché alla fine ogni volta è l'amore che ci salva dalla ferita del mondo. E senti solo il cuore, e il male non esiste più e non c'è più dolore, soltanto io, soltanto tu, questo silenzio sa di mille parole, ed io starei qui ad ascoltarti per ore, per anni, un solo secondo, e ora che mi guardi me ne rendo conto che alla fine ogni volta è solo l'amore che ci salva dalla ferita del mondo. Ed al ripetersi dei giorni che non valgono un ricordo, mantieni il bacio e non lasciarlo neanche per un secondo. E più io resto qui a guardarti, più me ne rendo conto, è l'amore che ci salva dalla ferita del mondo.